Cara nonna Barbie, come stai? Ti ho inviato un messaggio dalla luna, ma tu non rispondi quasi mai. Chi ti ha visto ieri notte che battevi sulla strada? Sempre bionda con le rughe un po' cadenti attorno agli occhi, ti ricordi quante bimbe t'hanno amata? Ora mastichi la gomma anche senza denti e chi ti incontra al bar nemmeno ti saluta. Forse morirai in un incidente o di inedia senza più alcuna gloria nella clinica di quel vecchio deficiente di Big Jim con l'Alzheimer tracconati di malaria. Quanto costa, mia cara nonna Barbie, quella tua bocca gonfia come il culo di una scimmia? Nel traffico del mondo ora ti perdi e c'è un pazzo che ti segue e guarda, t'assomiglia. Da bambino lui voleva essere te, poi è cresciuto e non t'ha dimenticata. E ora che ti compra, bacia le tue rughe, strappa l'etichetta del prezzo di una vita. Guarda t'ha smontata, buttata dentro il cesso e tirandola a catena ora t'osserva vorticare. Cara nonna Barbie, solo un fesso si ripete, ma intanto, intanto, tu ritorni al mare. E in quel mare che si muove in ogni dove, tra isole di plastica come continenti interi, paradiso sterminato di rifiuti al sole, nella pioggia che attraversa d'acciaio i tuoi pensieri, rivedi finalmente la tua villa tutta rosa, la piscina che restava azzurra anche di sera, si scolora anche la tinta dei tuoi capelli biondi. Cara nonna Barbie, perché non mi rispondi?